Spartaco ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Garanzini. Dica. No, volevo fare un intervento sulla partita Lazio-Inter ieri sera, in generale sulle tifoserie di Roma e di Lazio. E io sono convinto che chi semina vento prima o poi raccoglie tempesta. La cultura del biscotto, del sospetto che hanno avuto con la Fiorentina, i tifosi romani, con il Parma, con la Lazio, che cosa vuole che raccolga? Per esempio il pollice verso, di presa in giro verso gli altri, i vari Rolex, tutte quelle cose che sono successe, l'impunità della difesa romanista, della tifoseria romanista, senza tener conto addirittura delle dichiarazioni di quel poveretto che era all'ospedale che ha rischiato la vita. La Lazio, che il nostro presidente addirittura a porta, l'ho sentito con le mie orecchie, non possiamo far fallire la Lazio perché la Lazio ci sarebbero dei problemi di ordine pubblico. La legge fatta apposta per prolungare di 25 anni il pagamento del debito, un'altra società come la Fiorentina, io sono simpatizzante Fiorentina, non sono tifoso però. Tutte queste cose cosa significa? Significa che ognuno può fare quello che vuole e Roma, come in tante altre cose, è veramente impunita. È logico che i tifosi della Lazio siano rimasti contenti della sconfitta della loro squadra. Per me è una cosa abominevole, però d'altra parte questa è la vita e i romani non possono davvero lamentarsi di quello che hanno provocato. È una buona sintesi, Spartaco, la sua, effettivamente, però con un salto finale che manca. E cioè, io credo che tuttora, certo, non c'è più da stupirsi di nulla, e cioè il trattamento di questi anni è tutto quello che lei ha brillantemente ricordato, ma con un salto. Cioè, io credo di ricordare che i regolamenti calcistici tuttora vigenti impediscono di perdere volontariamente una partita, e soprattutto di perdere in maniera così spudorata. Quindi c'è questo salto che manca per arrivare a capire esattamente cosa è successo ieri sera e perché la federazione o comunque i responsabili non pensino o non abbiano ancora pensato al momento, perché può sempre ancora anche accadere, di prendere provvedimenti.